No, ti ho sentito, ma eri in FM, questa parte dell'FM non esce, mi sa. Ah, non ce l'hai l'FM tu? Sì, ce l'ho, ma non c'era l'altro, chi era che stava parlando con te? Ho capito. Poco fa ero in giro per provare l'antenna della macchina. Ma io guarda, sono qui in dove c'è Secchi, in Barsecchi. Dove sei? A Barsecchi, in Viale Italia. Ah, in Viale Italia, sì. No, io sono tornato a casa perché devo fare una cosa qua e quindi sono dovuto tornare. E adesso mi devo misurare la pressione, capito? No, perché un amico che è rimasto a piedi con la macchina, ha spaccato la cinghia, l'alternatore ha spaccato. L'ho soccorso io, che devo fare una visita all'ospedale, e adesso qui fermo aspettando a lui finché non finisce. Mi aspetti un attimo, là, di bianco, riprendo subito. Fai. CQ10. Ci sono sempre io, nata lì. Ciao Gianfra, ben risentito. Allora, tutto fatto? Tutto regolare? Sì signore. Meglio così. Io mi stavo accingendo a fare una cosa che devo fare da tanto. Ma devo fare un buco. Sto facendo uno scatolino per fare una commutazione, per diminuire il numero di microfoni, giusto per fare qualcosa. Quanto è dura la vita, Natalia? 11:20, tra poco. Mi sa che anche questa domenica è fatta. Tra poco si va a pranzo, almeno noi cosa possiamo fare, ne dobbiamo approfittare, no? Perché purtroppo c'è anche chi non può fare neanche quello. Poverini, hai ragione. Oiaia. Ah, cosa tutto si sta vedendo. Oi Natali, non vuole parlare, noi che abbiamo la stessa età possiamo dire veramente che anche da grandi, da adulti, da anziani, tutto quello che si vuole, però mi aspettavo tante cose, ma questo che sta succedendo mi ha letteralmente preso in contropiede. Cioè mai, e poi in tempi anche così ristretti, cioè stanno succedendo delle cose che non riesci a capire, che non hanno senso in effetti, perché che senso ha? Siamo nel 2022, la gente si aspettava più libertà, più voglia di risolvere i problemi, che ce ne sono già tanti, invece eccoti qua, a due passi dalla guerra. Ma Millo, quello che ci aumenta il gas. E allora, Millo mi, a bombolino bomboletto. Ciao Antù. Come arrivo? E io sto arrivando bene. Tu arrivi sempre bene, ricorda. Sono a stazione 2. Stazione 2? Sei al lavoro? Sì, ya. Che è successo? No, sono qua che sto facendo le pulizie, capito? Ah, pensavo che ci fosse ancora il, come si chiama, l'aggiottaggio anche di bombole. Caspita, ma cosa ci dici tu che sei di lì, che la prossima settimana aumentano di nuovo? No, già è vero. Io sono a quota 37 per quelle da 15, 25 per quelle da 10. Cosa c'è? Aumento di nuovo? Noi eravamo 24,50 e 36, eravamo. Ah, come lo puoi dare un controllo per vedere se è aumentato il segnale? Quanto sta guarda, per me sei intorno a 9-10, abbastanza tranquillo, R5, ti sento bene, no? Non c'è problema. Ma Natalino com'è? Santiago 9, Radio 5 qua. Sì, va bene, dai, adesso provo a attaccare. Guarda a vedere staccando com'è. Credo sia 8-9. E qua è 7. Ma no, ma è... Hai sentito Natalino? Da Natalino è 7. E così aumenta 9. Un bella potenza, cioè, un bel. Anto, però non taroccare a queste cose della potenza di mettere il watt. Guardami, c'è Natalino qua, era in macchina, a Platamona io lo sentivo, c'era 5 watt, io lo stesso, quindi non c'è bisogno di tutta questa, di tutto questo gas, adesso che ce n'è poco. Non so se può permettere di dare gas. Non so come uscivo, capito? Sì, ho capito, ma anche tu non ti fare portare da queste cose dei watt, eccetera, che poi alla fine servono solo quando proprio non ti sento, ma cavolo, anche se ti dicono un segnale 7, un segnale 6, radio 5, che te frega, poi mai ti sei in giro, ti si scarica la batteria, neanche te ne accorgi, rimani pure a piedi. No, questa è una stazione fissa, cosa in giro? E tu mi hai detto stazione 2? Perché io ho l'antenna anche in deposito, dove lavoro, capito? Me l'ha fatta mettere. Ah, quindi ti chiama, quando è bombola 1 da centrale, portarsi immediatamente e farle pagare anche l'aumento. No, lo uso per comunicare con voi, capito? Sì, sto scherzando ovviamente, bisogna anche scherzare ogni tanto. Ascolta, quindi non me lo dai per certo che la prossima settimana aumenta, perché non si capisce più niente qua e siamo un po' tutti incasinati. Va bene che ho fatto un po' di provvista, però insomma. Aumenta, tranquillo che aumenta. L'hanno già annunciato. Insomma, andiamo a 40 per quelle da 15, magari e 30 per quelle da 10. Ma comunque noi la diamo sempre di meno di quello là. Sì, c'hai assolutamente ragione, però se tu pensi che per arrivare da te insomma devi fare oramai più qualche chilometro in più, col valore della benzina praticamente il guadagno che fai da te ce lo perdi rispetto a quello che è vicino, anche quello c'è da dire, vero Natalino? E a piedi purtroppo col carrellino non si può andare a queste distanze. Riprendi Natalino. Infatti, ma dove andremo a finire? A telematica la mia veneranda età, devo vedere tutte queste cose. Noi che andiamo in giro col baccolino, poi ci sono questi giovanotti come Antonio, capito? Che ce l'aumentano. E allora? Io non c'entro nulla, non c'entro. Basta bruciarlo, buonasera, buongiorno. Ehi, a te Cristian! Basta bruciarti e basta. Sono in stazione 2 sono, Vai che ce n'è! E me la sono accorto, Buongiorno Antonio, buongiorno a Giovanni, cambio. Sì, ciao Giovanni, mi senti? Ma devo la Platamona, sì. Sì, sempre verso pettine, ti sento. Ma quanto sto arrivando lì? Segnale 9 e radio Super 5. Stazione 2 sono. Ringo Lem. Ciao Giovanni, se mi senti? Io gli ho levato la ventola, ci ha preso l'alimentatore che c'aveva la ventola. Si sente meglio adesso? Ciao Giovanni, se mi senti? Ah, c'è propagazione. No, c'è propagazione, sono io. C'era Giovanni, stava parlando, poi c'è Cristian e Bombolino. Chi è l'amico che non l'ho riconosciuto? Sembrava che dava fastidio, si sente meglio? io ti sento bene. Santiago 9, Radio 5, sta arrivando qua. Mi ho tolto la ventola all'alimentatore, vai, c'era sempre un fruscio sotto. Cappa. Ma io ti sento bene, dai. E io lo stesso. Io stamattina mi dicevano che sentivo la ventola, dunque l'ho staccata. E cappa. Stai attento che se ci vuole lo bruci quell'alimentatore. No, già ce l'ho sotto controllo, lo sto sempre toccando. Sono di bianco che sto andando a fare una cosa. Ci sentiamo proprio, vai. E cappa, vabbè. Ciao Antu. Tanto buon lavoro, a dopo, anch'io mi sto allontanando e ci sentiamo più tardi eventualmente, riprendi Natalino. E cappa, ciao Gianfranco, io adesso mi allontano per andare in cucina, che così prepariamo qualcosa da mettere sotto i denti. Cappa, non c'è problema, non me l'aspettavo che tirasse così forte, cioè andasse così bene. Cappa, non c'è neanche saturazione, nulla, cioè. Va alla grande qua, Cos'è le 4-7? Sì, no, è un'altra cosa, Beh, addio, va benissimo. Va bene, sono vicino a te, si può dire. Dove sei tu? Che zona sei? In Viale Italia, dove c'è Secchi. Dove sei? In Viale Italia, dove c'è Bassecchi, la pasticceria. Ah, non stai arrivando fortissimo. In mezzo ai palazzi, parcheggiato. Ah, io porto ti arrivo lì. Ah, voglia, alla grande. Che andate, dai. Va così bene perché stazionaria non ce n'è, capito? Lascia così, va bene, lascialo così. Appagata. Dai, che io devo andare a fare roba, ci sentiamo dopo. Vai tranquillo. Appagata, vai. Natale, riprendi il microfono. Ha fatto il fischio. Sono di fronte alla porta di Secchi e sono palazzi attorno da tutte le parti. Anda. E dove sei, in che zona stai andando adesso? Ho accompagnato un amico a fare l'analisi all'ospedale e lui è rimasto a piedi con la macchina e adesso lo sto aspettando, poi non lo so. Se ti serve. Non ho capito. C'è la macchina, poi il carbone se ti serve. No, già c'è il carbone, già. Gappa. E veramente l'ho provato a vedere come andava con questa antenna. Già spinge, già. Maradetto. Sì, bisogna provare la macchina mia, si spinge a vedere, guarda. Gappa. Il problema è cambiare il fusibile da me, se no mi spacca il fusibile. Ma tu vai stai uscendo, vuoi cosa? Perché ho il mio apparato omologato. Papà ha sentito l'amico al terzo pezzo, ne arrivava un uomo. Minchia! Io sentivo a lui anche bene, non è un bel segnalino, Per essere al terzo pezzo non è un bel segnale. No, ma mica un bel lontano mi dà qua. No, ma io potrei scherzare, lo sentivo bene qua, da qui lo sentivo abbastanza bene. Come ti è parato, lo sentivo. Già va bene, dai. Dopo, ma ti stai muovendo adesso? No, sono fermo, parcheggiato. Se muovo due secondi, addio parcheggio. Già lo so che funziona così, già. Allora cerco di evitare. Gara, un avvento per te. Ehi, è proprio, si mangia. Ma non mangia, se mi fa... digiunare ogni tanto fa bene, eh. Ma gara, uia. Dimmi, c'ho il barbecue, pronto a arrostire, un po' confuso. Sempre arrostire, sempre arrostire, boh. Questa volta che avevano noi sassanesi, ogni 3x2 la fanno l'arrosto, boh. Basta chiamarla, Pomponio, ci sei? Ehi, avanti! Dove sei, Pomponio? Sì, è il bombolo. Io sono qua, va. Hola, chicos. Ma tu in verità, tu c'hai l'FM da te? Sì, che ce l'ho l'FM. Come fare un FM? Ma chi c'è il propagatore? C'era Natalino con un altro, non mi sentiva l'FM. Già lo so, già. Boh, non lo so se questa parte c'è l'FM, non lo so ancora. Non l'ho provato. Dovrebbe entrare Gianni un attimino a darmi il controllo. Come l'FM se mi senti? Non ho capito. Prova se mi senti in FM, se sto uscendo. Fa due minuti. Ehi. Cristian, prova. Ha detto Cristian. Sì, che stai uscendo. Tu un po' strano sei. Ritorna in AM, dai. C'è solo, c'è solo. Gappa. Sto aspettando due minuti che entri Gianni e poi... Ok. Attenzione, binario 10, chi cappa? Non c'è l'eco. 9-5, buongiorno a tutti. 9-5 sono, già. Veglia. E così com'è? 7. E così è 9-5. A buia. Ma che apparecchio stai utilizzando? Il gas. Ah, va bene, dai. A voi, ragazzi, va bene, va bene. Ciao a tutti, dai, che vado, che sto facendo roba, dai. Era solo per dare un controllante. Ci sentiamo, ciao Cristian, buona giornata, dai, anche a te. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo, ciao, ciao. Ciao, ciao. Dai, signori, io vi lascio che devo preparare mangiare. Ciao, risentiamo, amori. Ehi, buon abbraccio, anzi voglio anche a mangiare da voi. Grazie, ciao. Canale 10 con 4 Nuclo da Sassari, Kappa!